con Daniele Lucchetti, regista del film Momenti di trascurabile felicità, al cinema da giovedì 14 marzo 2019. Daniele, ben trovato. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Bene, bene, tutto a posto. Come Sembra un lo dialogo racconti? di quelli che fanno, i due che si incontrano al bar. No, ciao, che fai? Tutto a posto, tutto a posto. Senti, come lo descriveresti, come lo racconteresti in breve il tuo lavoro? Momenti di trascurabile felicità è un curioso film che parte col desiderio di essere una sorta di collezione di momenti, appunto, di trascurabile felicità in cui ritroviamo delle cose della nostra vita e che a un certo punto, sono sicuro, ti incuriosiscono e riesci a dire: quello sono io, e così sono io, Francesco Piccolo. Da qui a tratto nasce con questo desiderio di essere una sorta di catalogo di quotidianità che non notiamo, e finisce invece per essere la storia di un bilancio di una vita in cui spero ci si identifichi in maniera profonda e che, come dire, partendo da cose buffe, influenti, domande totalmente sciocche, arriva a farti delle domande sul senso profondo dello stare al mondo, delle relazioni, degli effetti. Come era nato tutto? Ma tutto nasce da questi due libri di Francesco Piccolo, Felicità ed infelicità, dal desiderio di fare un film, dall'idea di usare Piff come attore e da un giorno uno spunto che io con Francesco Piccolo ci siamo detti quasi per scherzo: dico, ma se fosse un film un po' come quei vecchi film tipo Il Paradiso può attendere, in cui il personaggio va in paradiso, muore, va in paradiso e poi può tornare sulla terra solo per 1 ora e 32 minuti, e in quell'ora e 32 minuti fa un bilancio della propria vita, ma invece di farlo sulle cose importanti, lo fa sulle cose piccole, sulle imperfezioni, sugli errori, sulle imprecisioni della vita quotidiana. E abbiamo, quasi per scherzo, dopo la seconda riunione di sceneggiatura, cominciato a scrivere, nel giro di pochissimi giorni è venuto fuori questo film che, secondo me, genera più identificazione vedendolo di quanto noi pensassimo scrivendolo. Quali sono gli elementi della scrittura di Piccolo che più ti convincono? Rispetto invece a Piff, com'è andato il rapporto sul set? Come vi siete trovati? Tornando alla sceneggiatura, su cosa hai puntato nella trasposizione? Nel complesso il lavoro con il cast com'è stato? Come sempre, film. Come capita nei film. No, guarda, è stato un cast abbastanza piccolo perché i protagonisti sono cinque, che sono Renato Carpentieri, Tony e Gif, e poi ci sono due bambini, sono dei ragazzi che sono la loro prima esperienza, e poi c'è una costellazione di personaggi, di brevissimi professionisti trovati quasi tutti a Palermo, ma è un cast incredibile la verità. Più che le facce conosciute, e soprattutto ho cercato di armonizzarle intorno allo strano modo di stare al mondo di Pizzo, che è, a sua detta, quello strano Che nelle comitive e anche nel film. uscita sarà? Sarà un'uscita importante, di 350 copie, quindi è un'uscita ottima, insomma, spero che il pubblico ci vada rapidamente, perché poi arriva l'estate, poi non c'è più tempo. 1,32 è solo 1,32. Allora, ricordiamo il film Momenti di trascurabile felicità dal cinema da giovedì 14 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Lucchetti. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Crepi lupo, alla prossima, ciao!